Ed eccomi qua anche oggi, venerdì 22 novembre, 15:15, rigorosamente in diretta su CRMP Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme anche oggi. Che bella giornata, insomma, fa un po' freddino, devo dire. E vabbè, pazienza, è giusto che faccia così questo tempo. E allora vi ricordo subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste. Per i vostri sms il 335-56-37-251 e ancora lo 0921-92-32-92. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, e se non siete ancora tra i nostri contatti, semplice, andate su Facebook, scrivete CRMP Radio, entrate nella nostra pagina, cliccate mi piace, così anche voi entrerete a far parte della nostra bella grande famiglia. E ancora vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it. Allora, io ho detto tutto, quindi adesso possiamo cominciare, possiamo partire con la musica di CRM Happy Radio. E ancora buon pomeriggio. Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto? Come quella volta in treno che guardavi dal finestrino, t'ho vista avvicinandomi, cominciai a fare il cretino. Che ore sono? Quanti anni hai? Davvero sei di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo? Ti accontenti di ti voglio bene oppure vuoi proprio ti amo? T'ho comprato un cagnolino che abbaiava raramente, ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente. Lo sapevo che eri strana, però non capivo quanto, e da quando stiamo insieme 2, 3, 4 volte ho pianto. Cosa vorresti da mangiare? Siamo andati al ristorante, sembra non ti piaccia niente, pure di cose erano tante. Allora siamo andati al mare, così almeno ti rilassi, e invece è troppo caldo, così anche lì mi stressi. Andiamo via, ti prego, andiamo a casa, ti farò impazzire, ma poi sei troppo stanca, hai mal di testa e puoi dormire. Però mi piaci, mi piaci, fare mi piaci, se mi piaci, se siamo usciti con gli amici tuoi almeno sei contenta, siamo andati in birreria, 4 chiacchiere e una finta, anche lì neanche a farlo apposta hai avuto da ridire, perché la musica era troppo alta e hai chiamato il cameriere. Questo mondo mi fa schifo, guarda un po' che serata c'ha, lui ovviamente si è incazzato e ha dato a me un cazzotto in faccia. Però mi piaci, se mi piaci, che ci posso fare? Mi piaci, se mi piaci. E mai convinto che tua madre si sentiva troppo sola, di restare un po' da noi che una settimana vole così. Sono 2 anni che mi stressa ogni mattina, dice che lo fa per noi, alle 5 già in cucina, che prepara non so cosa gli dirà quella sua testa. Sono 2 anni di tortura, dice vado invece resta. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare? Mi piaci, ci ho creduto veramente, eri bella come il sole, il resto non contava niente. Però adesso hai esagerato, ci ho pensato di nascosto, anche il sole a volte brucia e accanto a me non c'è più posto. Ma perché quel giorno che t'ho vista fui così cretino? Se potessi tornare indietro ti butterei dal finestrino. Però mi piaci, In diretta su CRM Happy Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along, how did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. Proprio dei Maroon 5, esattamente proprio del leader dei Maroon 5, Adam Levine, che si è aggiudicato il titolo di uomo più sexy del mondo. È stata la rivista People ad assegnare allo frontman dei Maroon 5 appunto il meritevole primato per il 2013. La ciliegina sulla torta per il cantante, che comunque in questo periodo sta vivendo un momento magico, un periodo interessante, e sembra che tutto stia andando nella giusta direzione. Devo dire, guardando le foto, che è proprio un bello metto, quindi meritatissimo questo premio, cioè proprio bello, bello, bello e bravo. E andiamo avanti con la musica, Laura Pausini e Kylie Minogue in Limpido. Forse noi non siamo fatti per cambiare, forse noi non lo saremo mai, ma non è principio imprescindibile di ciò che sei per me. And when the night time's falling and my eyes are closing, you appear, and buried deep inside is all the love that you don't know. I hold, lascerò. su questa canzone saluto Patrizia, fan sfegatata di Laura Pausini, e parliamo proprio di lei. Grande successo per la nostra Laura nazionale a Las Vegas, ospite speciale alla 14ª edizione dei Latin Grammy che si è svolta a Mandalay Bay Hotel. La cantante ha omaggiato inoltre un altro grande artista, Miguel Bosé, premiato come personalità dell'anno, duettando assieme a lui in Te Amare. I due artisti poi si sono scambiati un innocente bacio sulle labbra a testimoniare la loro grande amicizia. Intanto Laura è balzata al primo posto in classifica con l'album 20 The Greatest Hits, quindi un successo meritato per questa grande artista italiana, una bella donna, una brava cantante, una grande, grande mamma della piccola Paola. Bene, bene, brava la nostra Laura nazionale, che ce la invidiano in tutto il mondo, e noi siamo orgogliosi di averla come cantante. Bene, andiamo avanti con la musica! I fell in love with a wind-up souvenir. I bought it downtown as I was on my way to meet you. She sounds like the songs you used to sing to put me to sleep, but now that you're gone, she's all that I've left to hold. And I feel so all alone. No one's gonna fix me when I'm broke. Oh, how do you cry with an enemy that you're never gonna smile with the way that you are? And I feel so all alone. I gave it to you. I thought you might appreciate the way that she dances, the painted look upon her face. She must have come from the sun. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. Can you understand something that you never had? Oh, baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. To light.

Semplicissimo, perché ci fanno ridere. Secondo l'indagine condotta da Future Concept, il 63% degli italiani sorride tutti i giorni. Quindi, che dire, siamo a buon punto, ma possiamo sempre sicuramente migliorare, per cui mi raccomando, gioite, sorridete, ridete a crepapelle, mi raccomando, perché avete solo da guadagnarci, quindi sorridete sempre, mi raccomando, aiuta, fidatevi, aiuta, eh. Andiamo avanti con la musica. Lying in my grave, written on my tombstone, I wanted to say, this man was a legend of his time. When he was at a party, the party never died. Hey, everybody's got a dream, so what do you say? Are we making history? May I? Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Davvero vuoi convincermi che tutto è stato inutile tra noi? E incasso anche quest'ultima tagliente tua bugia. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia, che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi che è stato un brutto sogno, vienimi a svegliare. raccontare estranei di tutti i fatti miei su noi. Rivivere gli stessi giorni da una fotografia. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia, che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi che è stato un brutto sogno, vienimi a svegliare. Parla pure piano, ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure piano, ma tanto quanto basta per poter capire. Io son per te l'amore. Su questa canzone saluto Vanessa. Ciao Vanessa, parliamo proprio di lei. Beh, è diventata grande Emma dopo il club, macina sold out nei palazzetti con Schiena Tour, tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago, dove 10.500 fan hanno cantato per un'ora e 40 i successi e i nuovi brani, presentati anche in acustico come nel CD appunto Schiena verso Schiena. Sul palco insieme a lei hanno cantato pure Checco de Modà e Nesli, quindi brava la nostra cara Emma, che tra l'altro ricordo che è uscita da un talent show, quello di Amici appunto di Maria De Filippi, che partirà domani nel pomeridiano. E inoltre ad Amici ci sarà un nostro carissimo amico rapper Joker, quindi facciamo tanti in bocca al lupo al Joker, mi raccomando, tieni duro e vai alla grande. E adesso noi, beh, ci lasciamo, però tranquilli, torno subito. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è Semplicemente Insieme. What you do when you have everything. giù. La la la la, maybe the days we have are gone, living in silence far too long. Open your eyes and what do you see? The last stand, let go of my hand. Turning slowly, looking back, see no one can save this. You're broken, and I'm this one alone. I'm not supposed to be the man I ought to. Rock and roll sent us insane. Questa canzone saluto Luciano. Ciao Luciano, buon pomeriggio. E noi continuiamo. Intanto vi ricordo ancora una volta i nostri numeri per potermi raggiungere e contattare: il 335 56 37 251 e ancora lo 0921 92 32 92. Vi ricordo ancora la nostra pagina Facebook e ancora il nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it. E allora? Beh, balliamo, ma balliamo sul mondo! Siamo della stessa pasta, bionda non la bevo, sai. Ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale. Se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'hai. Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica, calremo ballando, sul mondo lo sai si scivola, facciamo un bandango, da sotto qualcuno riderà, balliamo sul certezze, forse guai, ma se dall'Atlantide all'Everest non c'è posto per noi, guido io in questo tango, ci facciamo posto, dai, balliamo sul mondo, mi porto le scarpe da te. Se c'è chi perde, noi balliamo casomai. Non avremo classe, ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi. Ballando, ballando su, ballando su, mondo, facendo, facendo, facendo un fandango. Ballando, ballando su, ballando su, tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Una lacrima sospesa che non voleva scendere, un sorriso a denti stretti, questo prima di te, prima di te. Era neve all'equatore, indeciso su di me, avevo tutto ed ero niente, io prima di te, prima di te. Ero una bandiera ferma che aspettava il vento con come un sorso d'acqua pura che scorre in gola, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare. Prima di te, prima di te, c'era un bacio lì a mezz'aria che si era perso, come il primo giorno a scuola. Tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te, prima di te, prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che tu hai raccolto, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meraviglia. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credevo più. E sono ancora insieme a voi e su questa canzone saluto Pietro, che in questo momento sta lavorando, però nel frattempo ascolta Semplicemente Insieme. Ciao Pietro, buon lavoro, e noi ancora andiamo avanti con la bella musica, sempre rigorosamente in diretta su CRMP Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme. It breaks my heart cause I know you're the one for me. You feel sad there never was a story, obviously. And you will never know, I will never show what I feel, what I need from you, no. I will never show what I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. Won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. What I need from you, no, no, you will never know. I will never show what I feel, what I feel, what I feel. E su questa canzone saluto Michela. Ciao Michela, un bacione grande grande. Stavo leggendo una notizia così un po' non strana, però succede ad una donna, una giovane donna americana, praticamente mette all'asta, diciamo vende un vecchio vestito usato per pochi dollari, fin qui niente di anormale, però dimentica nelle tasche di questo vestitino diversi oggetti preziosi. Diciamo che la donna ha preso parte ad un mercatino dell'usato, all'inizio non era nemmeno sua intenzione partecipare, però le insistenze della figlioletta di 6 anni, che trovava l'idea divertente, un po' le hanno fatto cambiare idea. La donna quindi ha messo quindi questi capi di abbigliamento in vendita, compresa anche una giacchetta di jeans nella quale appunto nascondeva degli oggetti preziosi, cioè tra le altre cose degli orecchini con diamanti del valore di $18,000, un anello e $1,500 in contanti. Solo dopo averla messa in vendita nel pomeriggio, insomma, la donna si è accorta di quel che aveva fatto, quando dovendo portare i figli in piscina si stava praticamente togliendo l'orologio e ha pensato di nasconderlo nella giacca dove quindi regolarmente lei teneva gli oggetti preziosi. Beh, la donna ha messo diversi annunci nella speranza di vedersi restituire i preziosi, in particolare gli orecchini che erano un ricordo di famiglia. Beh, chissà se qualcuno che ha trovato la giacchetta giustamente ritornerà, porterà indietro quantomeno questi orecchini. Ma come si fa, dico io, a nascondere oggetti preziosi in una giacca? C'è ancora chi lo fa, ecco, sotto il materasso, per esempio. Lei invece lo fa nella giacca. E vabbè, poi capitano ste cose. Vedi come sarà proprio depressa questa giovane donna. Beh, chissà, magari chi ha trovato la giacca, chi ha comprato la giacca, magari gli ritornerà indietro questi, quantomeno gli orecchini, che erano appunto un caro ricordo di famiglia. E noi andiamo avanti con la musica, arriva lui, Cesare Cremonini. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Roger, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... Là fuori Union Square entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè.

vie, c'est la vie, Khaled. Su questa canzone saluto il mio carissimo amico Peppuzzo, che in questo momento mi sta ascoltando. Ciao Peppe, un bacione grande grande. Noi continuiamo con la bella musica. 50.000 lacrime non basteranno, perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento, perché tenue ricordo il mio volto per te. it's raining men. Go get yourself wet, girl. I know you want to. It's Raining Men. Su questa canzone saluto Luisella. Ciao Luisella. Io sta per recuperare, che cosa voi pensate? Vabbè, qualcuno di importante? Beh, la sua cassa di birra. Cioè, ma si può? Rischia la vita per tornare in casa, quindi dove c'è questo incendio, per recuperare una cassa di birra. Tra l'altro poi, secondo le notizie, di qualità piuttosto scadente. Cioè, allucinante, allucinante, rimango veramente a bocca aperta. Cioè, sta proprio delle notizie, guarda, guardate, veramente da rimanerci. Mamma mia, la gente è proprio fusa, è andata, è fuori di testa. E noi andiamo avanti invece con Noemi. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole,

al tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera, e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente. E fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più, scegli me tra i tanti, scegli me. Siamo quasi quasi finendo, arrivati quasi alla fine, però abbiamo il tempo di un'altra canzone naturalmente, e poi tornerò per i saluti finali, naturalmente poi ritornerò lunedì sempre a partire dalle 15 a tenervi compagnia sempre con la bella musica di CRMP Radio e poi con il gossip, le notizie, le curiosità. E intanto andiamoci ad ascoltare Jennifer Lopez con Papi e poi ritorno, non andate via, ritorno. The heat poured down. I'm good as long as. questa era l'ultima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento insieme a me lunedì, sempre a partire dalle 15 circa sino alle 17. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di CRM, l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Rock Revolution, no, con Filippo, Simone Brancato e tutto lo staff appunto di Rock Revolution. Vi auguro un buon weekend e soprattutto, come dico sempre io, beh, fate i bravi. Ciao ciao, a lunedì, baci.